Il 5 di questo mese, quindi lunedì mattina, da Roma partirà una delegazione di circa 40 persone, composta da avvocati italiani, perché poi c'è un'altra delegazione europea che arriverà lì direttamente in Turchia, e partiremo, ci sono avvocati, operatori sociali, giornalisti, c'è una giornalista della Stampa e di altri giornali, e andiamo tutti ad assistere al processo che si terrà a Diyarbakir, nel cuore del Kurdistan. Diyarbakir è la capitale, nel sud-est della Turchia, a pochi chilometri diciamo dall'Iran, sul fiume Tigri, e poi a Van, che dove c'è stato il terremoto, e andremo a portare gli aiuti e la solidarietà alle persone che stanno ancora scavando dopo il terremoto, che continua a mandare scosse. Anche l'altro ieri c'è stata una scossa del quinto grado della scala Richter. Andremo a partecipare a questo processo il 6 dicembre, partiamo il 5, arriveremo il 6 a Diyarbakir, e questo processo è uno dei tanti intentati contro tutta la società civile curda, così abbiamo denominato questo processo, che per il governo turco è contro tutti coloro che hanno avuto delle cariche pubbliche, che le hanno ancora dopo le elezioni del 2009. Ci sono state elezioni amministrative in 72 città del Kurdistan, naturalmente c'è stata la vittoria del partito filo-curdo, diciamo, del Partito della Democrazia e del Popolo. E questo partito, i rappresentanti sono quasi tutti sindaci, segretari provinciali, consiglieri di quelle zone, che dopo alcuni mesi, nel mese di novembre del 2009, hanno cominciato a subire arresti. Ossia, il governo turco ha detto che tutte queste persone, che sono appunto i rappresentanti della società civile, erano aggregati in un'associazione sovversiva e banda armata, sull'onda è simile a quelle che succedono, alle accuse che fanno qui in Italia i compagni, insomma, perché questi reati sono reati che si attagliano benissimo a dissensi politici, perché un'associazione sovversiva, se vuole cambiare lo stato delle cose, no? E la politica. E quindi anche lì questo strumento dei reati d'opinione, ma anche reati materialmente identificati con bande armate, vengono subiti queste accuse da persone che si oppongono al governo turco, soprattutto in quelle zone, perché i curdi, tutti sanno bene, vorrebbero avere un'autonomia loro, vorrebbero poter parlare la loro lingua, poter studiare la loro storia, tutte cose vietate in Turchia. Tra l'altro, adesso che i curdi cacciati dai loro villaggi, perché il sistema è quello dei soldati turchi che si insediano nei villaggi e fanno entrare i coloni, come fanno in Israele e come si è sempre fatto in tutto il mondo per togliere qualcuno dalle proprie terre, insediano i coloni e le persone fuggono dai villaggi in montagna e lì nel Kurdistan, e cominciano ad arrivare nelle città, grandi città turche, come appunto Istanbul. E che succede lì? Che la gente comincia a conoscere questi curdi, che attraverso i giornali e la propaganda del governo apparivano come dei criminali, dei terroristi, e quindi invece oggi cominciano a conoscersi, si integrano nella società turca molto di più che rimanere nelle proprie città in Kurdistan. Quindi oggi c'è anche un movimento turco che vuole che i curdi abbiano una loro lingua, abbiano una loro storia, abbiano una loro vita con le loro tradizioni, anche se diverse da quelle turche. Questa cosa ha infastidito moltissimo la Turchia, perché gli si è ritorto contro un'azione politica che loro hanno fatto per sterminare in pratica i curdi, perché o li uccidono, o li incarcerano, o li tolgono dalle loro famiglie, dal loro case, o sono costretti a fuggire, come quelli che vengono in Europa per poter avere un asilo politico, perché non possono più rientrare in Turchia. Però oggi gli si cominciano a insediare nelle città, tant'è vero che a Istanbul, oltre a essere conosciuti, la società civile turca a sua volta invece li accetta, e c'è un intero quartiere a Istanbul dove si sono insediati ormai da un paio d'anni, appunto da quando è cominciata questa grandissima campagna contro i curdi, che si affianca alla campagna militare, che naturalmente non è mai finita, perché quelli che, i curdi che stanno sulle montagne al confine con l'Iraq subiscono ancora bombardamenti e invasioni dell'esercito turco, eccetera, ma tutti gli altri che sono fuggiti e che stanno a Istanbul hanno occupato un antico quartiere, era il quartiere greco sotto Taksim, che è la, diciamo, la parte più alta di Istanbul, e sotto a ridosso di questa grande parte moderna di Istanbul c'è un vecchio quartiere greco dove appunto albergavano i greci che erano immigrati in Turchia, perché certo rispetto alla Turchia avevano condizioni più povere, e in questo quartiere sono insediati i curdi, e oggi ci sono anche associazioni turche che aiutano queste popolazioni curde, aiutano queste famiglie a poter vivere, e si sta facendo un progetto per ristrutturare queste vecchie case che erano abbandonate da quando i greci non c'erano più. Quindi si stanno trasformando anche le città turche. Noi andremo a questo processo, dove è successo che gli imputati curdi hanno preteso di parlare il curdo, perché la Turchia per entrare in Europa ha cambiato la Costituzione nella parte in cui non prevedeva che si poteva parlare curdo in Turchia, perché Ataturk aveva stabilito che la lingua turca è quella che lui ha costruito nel 1925 staccandola dall'arabo, e quindi in Turchia la lingua ufficiale è il turco e non si può parlare altra lingua. Ultimamente, alcuni anni fa, è stata cambiata la Costituzione per poter, tra le trasformazioni imposte alla Turchia per entrare in Europa, e quindi si è cambiata la Costituzione e si è scritto nella Costituzione che si può parlare curdo. Che cosa comporta questo? Che poi di fatto, se parla curdo uno che scrive libri, uno che fa cinema, questo è autorizzato, nessuno gli dice niente, i libri curdi vengono venduti nelle librerie, ma la popolazione curda non può negli uffici pubblici e in tutte le attività pubbliche dello Stato turco non si può parlare curdo, così nei processi. Allora, una delle lotte che hanno iniziato gli imputati di questo processo, ormai di tutti, è quella che quando sono interrogati rispondono in curdo. I giudici non vogliono questo, si rifiutano di interrogarli se parlano curdo, e a questo punto gli avvocati, anche turchi, che vengono dal Consiglio dell'Ordine di Ankara, che sono andati per solidarietà a difendere i curdi a Diyarbakir, a 3.000 chilometri, hanno deciso di parlare anche loro in curdo, o comunque di sostenere questa battaglia di parlare in curdo. La cosa ha scombinato tutti i processi, i presidenti dei tribunali, che non sono più tribunali militari speciali come erano fino a qualche anno fa, ma i cui componenti sono comunque persone che venivano dall'esercito oltre ai magistrati normali, i presidenti interrompono i processi ogni volta che parlano in curdo, e gli avvocati, 300 avvocati sono stati incriminati per voler dividere la società turca parlando in curdo, e questa è l'accusa principale, voler dividere la nazione turca tramite bande armate, associazioni sovversive, aiutando i lavoratori del PKK, che sarebbe il partito dei lavoratori curdi, di cui molti membri stanno sulle montagne a combattere. Queste accuse hanno raggiunto, con l'accusa di voler dividere la nazione turca, anche gli avvocati, e l'altra settimana sono stati arrestati, tra gli altri, anche 51 avvocati. Già erano stati arrestati gli avvocati nelle prime operazioni, il processo si chiama KCK, che vuol dire, insomma, contro i sovversivi curdi, roba del genere. Comunque, mentre già era stato arrestato per esempio a Diyarbakir Muharrem Erbey, che era il presidente dell'Associazione Diritti Umani di Diyarbakir, che è stato anche uno degli avvocati di Dino Frisullo, per chi se lo ricorda, è stato arrestato ormai dal 2009, c'ha tre figli e rimane lì in carcere. A oggi abbiamo altri 51 avvocati arrestati, e il 6 dicembre parte di questi avvocati doveva partecipare al processo di Diyarbakir, ora invece sono imputati, arrestati, per cui e in questo modo tolgono anche le difese agli imputati di questo processo. E in più verranno tutti gli avvocati turchi da Ankara, di cui una parte è stata già arrestata, e non so cosa succederà il 6 dicembre in aula, e dove ribadiranno che la lingua curda hanno diritto a parlarla, vogliono un interprete in curdo per il processo, non glielo danno e continua così. Però credo che sia una posizione di forza importante, perché moltissime associazioni hanno preso posizione a favore dei curdi, che hanno ragione, e se un italiano viene arrestato ha diritto all'interprete, anche se viene arrestato un inglese, loro chiedono di avere un interprete curdo, e questa cosa ha molto scocciato i giudici del tribunale, per cui vedremo quello che succede. Noi andremo e cercheremo di entrare in aula come abbiamo fatto altre volte. È molto difficile perché i tribunali sono circondati dalla polizia, dall'esercito, quando si arriva bisogna fare trattative lunghissime. Fortuna che abbiamo un paio di interpreti molto bravi, però faremo una manifestazione davanti come si è fatto sempre ogni volta che siamo andati, alla fine ci riuscirà, speriamo, ad entrare, però non sappiamo che cosa succede il 6. Il 7 dicembre ci sposteremo una parte del gruppo a Van, dove porteremo gli aiuti e la solidarietà gli aiuti raccolti in questi giorni, che raccolta che continuerà, sia di vestiti, di coperte, che di denari necessari ad acquistare le cose che mancano per tutti a Van, dove sono caduti quasi 80 palazzi, quindi immaginate, quasi rasa al suolo, dove ci sono anche il comitato delle famiglie con le bambine che noi stiamo aiutando a studiare. Ci sono delle famiglie dove il padre o è morto o ucciso dai turchi o sta in montagna a combattere, e queste famiglie, se possono, fanno studiare i maschi. Quindi un'associazione di donne avvocate di cui faccio parte, abbiamo creato un progetto per cui sono 2 anni che diamo contributi per far studiare queste bambine. E queste bambine stanno quasi tutte a Van, e non sappiamo come troveremo. Sappiamo che qualcuno è fuggito in montagna, qualcuno è tornato dai nonni in campagna, perché purtroppo molte case non ci sono più. Una parte del nostro gruppo andrà a Van a portare questi aiuti, e abbiamo un incontro col sindaco di Van, che non potendo essere autorizzato a raccogliere soldi dall'estero, perché la Turchia non vuole aiuti dall'estero, i sindaci, i segretari provinciali e comunali hanno costituito un'associazione che raduna tutte le associazioni di volontariato della zona, che si stanno occupando appunto di raccogliere gli aiuti che arrivano alle associazioni e utilizzarli per aiutare queste famiglie curde, perché il governo turco non vuole aiuti, però quelli che ha mandato lì li ha mandati per il suo esercito, le caserme loro, per ristrutturare le caserme dell'esercito che staziona lì nella zona, per poi arrivare sulle montagne, eccetera.